4. Ruote e dintorni di Roberto Rasia. Ancora una volta buonasera, bentornati amici dei motori, 4 ruote Radio 24 insieme per farvi vivere 45 minuti interamente dedicati ai motori. In onda su Radio 24 da quel maggio 2001, una prova di un'auto ogni settimana, tante inchieste, assicurazioni, tante inchieste legali anche, e poi un avvocato che ci fa compagnia per insegnarci il codice della strada ogni sera, insomma tanti argomenti, fra cui la prova della Peugeot 3008 questa sera con Andrea Sansovini dalla redazione di 4 ruote. Caro Andrea, bentornato. Grazie, ciao Roberto e buonasera a tutti gli ascoltatori di Radio 24. Dopo di te, Andrea, se vorrai rimanere in ascolto, ci sarà il presidente della NIASA, Roberto Lucchini, che si occupa di coordinare tutto il mercato dell'autonoleggio in Italia. Sentiremo un po' se sono cambiati i comportamenti degli automobilisti dopo la crisi che ha colpito il settore automobilistico, di cui forse si vede una timida luce in fondo al tunnel. Poi l'inchiesta sulla navigazione satellitare, terza puntata, Mio Technology, ci fa compagnia, sono navigatori satellitari con la TV integrata, e poi cercaassicurazioni.it, un altro portale che si occupa di comparare le varie tariffe, i vari premi assicurativi prima di sceglierli. Chiuderemo con la Coppa d'Oro delle Dolomiti, una gara storica di auto d'epoca meravigliosa che si terrà a settembre, e l'avvocato Lievore che ci fa compagnia parlando di biciclette. Avete sentito la polemica 3 giorni fa sulle nuove norme del codice della strada. Tutto questo per dirvi che radio24.it conterrà le voci, compresa quella di Andrea, da lunedì pomeriggio se vorrete riascoltarla. Peugeot 3008, ci fai una bella panoramica su questa vettura? Di che tipo di vettura stiamo parlando, Andrea? Sì, la Peugeot 3008 è un'auto che vuole essere una SUV, quindi queste sport utility grandi, spaziose, un po' alte, che si ispirano alle fuoristrada, ma in questo caso non è una vera fuoristrada perché ha solo la trazione anteriore, quindi ha l'aspetto, la sagoma di una SUV, ma alla fine è una vettura da famiglia. Direi che è proprio da considerare un'alternativa alla normale station wagon. Ecco, già questo mette sul tavolo alcuni temi importanti, perché dopo che qualcuno aveva previsto la fine dell'era delle SUV, adesso addirittura ci si ispira alle SUV per creare auto non SUV. Sì, è vero. In un certo senso hanno ragione tutte e due, nel senso che le SUV si stanno ridimensionando. È un po' passata la moda delle Hummer o dei macchinoni giganti, e in questo caso appunto è una vettura razionale, comoda, che non ha un motore enorme, perché per esempio in questo caso ha un 1.6 turbo diesel, non ha un costo esagerato ed è appunto un'auto da famiglia. L'unica differenza è quella appunto di essere un po' alta e di avere un posto guida più alto che permette una buona visibilità tutto attorno. Molto bene, siamo pronti per ascoltare insieme a voi la scheda che ci introduce al mondo Peugeot 3008. Non è facile inquadrarla subito. Ha come rivali la Qashqai e la Picasso. Alta e spaziosa, è quasi un SUV per famiglie, ma non è 4x4. La 3008 ha persino il maniglione sul tunnel, proprio di fianco alla leva del cambio, per consentire ai passeggeri di aggrapparsi nei salti e sugli ostacoli dell'off-road più spericolato, quello che lei però non vedrà mai. Gioca a fare la dura, con particolari come questo e con il muso che più aggressivo era difficile immaginarselo, e poi scopri che la trazione integrale non arriverà su nessuna versione, tranne nel 2011 sull'ibrida. Questione di costi, ma non solo. In realtà queste auto, dall'aspetto avventuroso, piacciono sempre più come familiari a tutto tondo, proprio a chi della trazione integrale può fare tranquillamente a meno. Nome: Peugeot 3008 1.6 HDi Tecno. Carrozzeria: 5 porte a 5 posti. Dimensioni: lunghezza 4,36 m, larghezza 1,83 m, peso 1.425 kg, motore anteriore trasversale turbo diesel, 4 cilindri in linea, potenza 109 cavalli, trasmissione, trazione anteriore, cambio manuale a 6 marce, prezzo da 26.051 euro. Allora, queste erano le caratteristiche base della Peugeot 3008. Parliamo del motore. Prima dicevi in realtà è solo un 1.6. Come si comporta con il FAP questo motore, Andrea? Ma questo è un ottimo motore, direi che è uno dei migliori turbo diesel in circolazione. Ha il FAP di serie, come dicevi, quindi il filtro antiparticolato, il che è un'ottima cosa soprattutto per muoversi in città nei periodi in cui ci sono limitazioni di tipo ambientale, cioè sì, viene chiuso il centro storico ai veicoli che inquinano. Questo motore è soprattutto gradevole da guidare perché è un motore molto fruibile fin dai bassi regimi, ha una grande coppia e la potenza che dicevamo prima di 109 cavalli, che dà alla 3008 anche delle buone prestazioni, intendo accelerazione che non è da sportivo ovviamente, ma comunque certamente, un buono scatto. E soprattutto ripresa. Ripresa, esatto. Sì, decisamente... Questa è una cosa tipica di queste turbo diesel che hanno una ottima copia e quindi riprendono. Noi facciamo la classica prova del 70-120 nella marcia più alta, che in questo caso è la sesta, e il tempo è molto buono. È perfetto. Sulle turbo diesel ne faccio un'altra, simulando un semaforo rosso in arrivo in seconda marcia finché non scende molto di giri, quasi a battere in testa, e poi simulando un semaforo verde schiacciando tutto, e lì ci sono differenze abissali fra tante auto. Le diesel in questo si comportano sicuramente meglio. Parliamo spesso ultimamente di rapporto peso potenza, lo facciamo soprattutto su a proposito di auto per cui vale la pena, però visto che vi avevo promesso per ogni auto rapporto peso potenza, questa auto che pesa meno di 1430 kg eroga 109 cavalli, vuol dire che ogni cavallo spinge 13,07 kg, che a confronto della Golf GT di cui abbiamo parlato 7 giorni fa, 6,39 kg per ogni cavallo, evidentemente è un altro argomento, ma non è la Peugeot 3008 l'auto da cui ci si aspetta. Però vedi come recupera in termini di ripresa. Abbiamo parlato del motore, del comportamento, parliamo adesso del comfort a cui Peugeot ci aveva abituato in passato. Sì, per quanto riguarda il comfort, la 3008 è una macchina decisamente comoda e silenziosa. Nei nostri test in pista abbiamo rilevato degli scossoni molto limitati sui classici ostacoli che proviamo, quindi le caditoie, che poi non sono altro che i tombini stradali, il gradino, le rotaie del tram e i lastroni tipo pavé, quindi quelli delle città, dei centri storici. Le sospensioni lavorano molto bene in tutte le situazioni. Anche per quanto riguarda invece il rumore nell'abitacolo, è una macchina abbastanza silenziosa, nonostante appunto il turbo diesel, ha un abitacolo ben insonorizzato, quindi si viaggia bene anche a velocità autostradale. Molto bene, adesso sentiremo insieme la pagella che dà i voti alla Peugeot 3008, poi chiederò ad Andrea di raccontarci, per salutarci, qual è il target preciso secondo lui in Italia di questa vettura. Posto guida, si sta seduti in alto come su un vero SUV, il volante si regola sia in altezza sia in profondità, voto 4 stelle e mezzo. Finitura, si ritrova il buon livello a cui le Peugeot ci hanno abituati, ottimi materiali e assemblaggi curati, voto 4 stelle e mezzo. Comfort. Su tutti gli ostacoli del percorso, le sospensioni smorzano bene i colpi. L'abitacolo è silenzioso. Voto 4 stelle. Motore. Uno dei migliori turbodiesel in circolazione, sempre ben fruibile. Ha il FAP di serie. Voto 5 stelle. Su strada, l'assetto è buono. Il baricentro alto non disturba nella guida e l'ESP interviene in modo corretto. Voto 4 stelle. E questa era la pagella. Andrea Sansovini ci racconta allora il target di questa Peugeot 3008. Andrea. Ma io direi che è una macchina, come dicevo, da famiglia, poi anche il prezzo intorno ai 26-27 mila euro ci aiuta a individuare appunto nel cosiddetto padre di famiglia il cliente ideale di questa macchina. Lo spazio a bordo è tanto, magari anche da famiglie in qualche modo sportive o che hanno bisogno dell'auto anche per qualche attività sportiva o da tempo libero, perché appunto lo spazio è molto fruibile. E poi ci sono caratteristiche che rendono questa macchina, se non proprio una vera SUV portata al fuoristrada, comunque adatta anche a percorsi un po' difficili, non sempre sull'asfalto, in particolare quando c'è un optional che è quello del grip control, che aiuta l'auto sulla sabbia, sul fango e sulla neve, ovviamente con le gomme giuste, quindi quelle da mud and snow, cioè fango e neve. Fango e neve, su cui ha puntato anche Peugeot per la sua pubblicità attualmente in onda. Molto bene, grazie davvero ad Andrea Sansovini di Quattro Ruote, a presto e alla prossima prova. Ciao! A presto, buonasera a tutti gli ascoltatori. Rimaniamo naturalmente in campo automobilistico, parliamo di noleggio. Noleggio, lo sapete, lo affrontiamo ripetutamente durante l'anno, un settore importante, fortemente sottovalutato negli anni scorsi, invece da un po' ci si è accorti che era uno dei settori più brillanti. Forse ora c'è la prima botta di arresto, ma forse chiamarla così è troppo. Lo chiediamo al presidente dell'ANIASA, che è l'Associazione Nazionale dell'Industria dell'Autonoleggio, ma anche dei Servizi Automobilistici di Confindustria, Roberto Lucchini. Presidente, buonasera e benvenuto. Buonasera. In 30 secondi le faccio dire i numeri del noleggio, gli ultimi che sono usciti dal 2008 e primo trimestre 2009. Mi prometta 30 secondi, poi facciamo una piccola pausa e inizieremo la nostra chiacchierata. Prego. Allora, il mercato del noleggio è sempre cresciuto negli ultimi anni fino a due cifre di percentuale di incremento. Nel 2008 rispetto al 2007 ha ancora registrato un incremento nel fatturato nell'ordine di grandezza del 7%, però questo è figlio di un doppio andamento: prima metà dell'anno molto buona e la seconda metà del 2008 già si sentono i primi segni di crisi. Parliamo di crisi nel senso che riflettiamo anche in questo settore quello che è l'andamento globale dell'economia. Nel noleggio a breve termine, nel primo trimestre del 2009, in effetti abbiamo avuto un calo del 10% dei noleggi, e mentre nel noleggio a lungo termine, quindi le flotte aziendali, il calo non c'è stato un calo effettivo, in realtà il fatturato è ancora cresciuto del 5-8%, soprattutto perché si trascinava i contratti realizzati nel corso del 2008. Del fine del 2008. Quattro, ruote e dintorni. Siamo in compagnia di Roberto Lucchini, il presidente della NIASA, si occupa di tutelare gli interessi, la lobby del noleggio a breve e lungo termine. Ci ha riferito già numeri molto importanti, partirei da quel meno 10%, presidente, che è un dato, insomma, due cifre, una diminuzione notevole per il noleggio a breve termine. Quanto pesa la voce turismo su questo noleggio a breve termine? Certamente pesa la voce turismo, che in effetti è quella che ha avuto un calo più significativo nel primo trimestre del 2009, ma pesa anche l'attività del viaggio d'affari. Il nostro settore va un po' a ruota con quello che è l'attività economica in generale. Se le aziende fanno opera di riduzione costi riducendo anche i loro viaggi di lavoro, di conseguenza noi vediamo anche quel settore rallentare. Quindi questa indicazione è un po' figlia di questo che è il clima globale. Sul turismo è vero, abbiamo avuto nel primo trimestre un rallentamento, il secondo trimestre con la Pasqua ancora ha cominciato a dare segnali leggermente più confortanti, e contiamo molto su questa estate, perché tutto sommato le indicazioni sono che in ogni caso, anche se più corte, ma le vacanze in ogni caso un po' tutti le continueranno a fare. Senta, a proposito di questo, abbiamo sentito Europcar, poi sentiremo anche tutti gli altri operatori recentemente, ci diceva che in un loro rapporto sulle abitudini della vacanza, quest'anno in particolar modo l'italiano userà la vacanza per andare in Puglia e al sud, nelle tante bellezze che noi abbiamo. Può essere che la prossima volta che ci sentiremo fra qualche mese lei mi dirà che c'è stata qualche sorpresa quest'estate in positivo? Sicuramente è una cosa su cui speriamo tutti e contiamo. Al di là della speranza, in effetti ci sono segnali che perlomeno per quanto riguarda il turismo italiano, Italia sì. In Italia, i segnali sono positivi. Ci sarà sicuramente una maggiore propensione a spendere le proprie vacanze in questo paese, e lo spostamento nord-sud è quello che vediamo più vivace. Destinazioni come la Sicilia, come la Puglia che lei ha citato, sono sicuramente le più premiate, anche perché noi lavoriamo molto nel intermodalità aereo più auto, treno più auto, sì. E i collegamenti su queste destinazioni si sono molto ampliati negli ultimi tempi. Decisamente. Senta, parliamo anche di fiscalità. Nei paesi a grande vocazione turistica si applica un'IVA ridotta, 10 oppure 15% su queste attività, in Italia no. E poi detraibilità. Fa capire ai nostri ascoltatori quanto siamo indietro in questo settore? Questo è un settore in cui il nostro mondo europeo non è allineato completamente, e l'Italia purtroppo sconta una differenza di costo superiore rispetto al resto d'Europa. Lei ha citato appunto l'IVA su prodotti e servizi turistici. In paesi direttamente concorrenti con l'Italia, come può essere la Spagna piuttosto che la Francia, è più bassa rispetto a quello che avviene in Italia. Questo è un tema che non solo noi ma anche Federturismo ha portato più volte all'attenzione. Certo. C'è un disallineamento, e questo ovviamente porne a una minore competitività delle nostre offerte. Sì, perché vuol dire destini più cari, è chiaro. E beh, per forza di cose, perché certo, voglio dire, certo. Lì c'è un'area su cui non possiamo intervenire, ovviamente. Dal punto di vista invece della detraibilità, lì siamo su un terreno diverso, lì parliamo delle flotte aziendali o dell'auto utilizzata da chi ha partita IVA o cose di questo tipo. E in questo caso anche la situazione italiana è diversa rispetto a molti paesi europei, paesi soprattutto del nord Europa, dove la detraibilità di questi costi, di questa fiscalità arriva fino al 100%, in Italia si arriva al 40%. Questo chiaramente è un in qualche maniera un freno alla possibilità di espandere e di creare sempre più interesse e anche per le aziende a entrare in questo tipo di utilizzo di servizi. Molto bene, chiuderei con una previsione per quanto è possibile in questi momenti così difficili per tutti. Nel vostro comunicato si parla di altri elementi di preoccupazione per il presente e immediato futuro. Riesce a essere un po' ottimista, Presidente, o le chiedo troppo? Ma bisogna sempre essere ottimisti, per carità. Giusto, non andiamo a peggiorarci il mondo oltre quello che è già difficile per conto suo, però bisogna anche essere realisti, e perché purtroppo la grossa difficoltà per molti, ma anche per particolarmente per il nostro settore, è la difficoltà di avere una visibilità sul futuro, e quindi questo comporta una necessaria prudenza da parte delle aziende nel come attrezzarsi ad affrontare il futuro che abbiamo davanti. È un po' questo, fra l'altro, la ragione per cui in termini di immatricolazione, quindi di investimenti in capitali, in asset, un po' tutto il settore quest'anno ha fatto una grossissima frenata, parliamo addirittura di 20-30% di diminuzione delle immatricolazioni. Si cerca cioè di andare avanti con gli asset che si hanno, magari lavorando con una vettura un po' più invecchiata, ma cercando di affrontare prudentemente il futuro, che è piuttosto purtroppo molto incerto. Scoprendo tra l'altro che, me lo lasci dire, si scopre dopo 2-3 anni che le auto, se trattate bene, vanno anche molto bene ancora, e questo è merito delle case automobilistiche che stanno lavorando bene. Merito delle case automobilistiche. Noi nel nostro settore, particolarmente il settore del breve termine, abbiamo, ma anche il lungo termine, ha sviluppato grosse know-how in termini di gestire la manutenzione della vettura. Cioè, lei immagini che una vettura che lavora nel noleggio o nel breve termine ogni 250 km ha un controllo. Credo che raramente una vettura privata abbia lo stesso tipo di trattamento. Ed è il motivo per cui l'usato è parecchio interessante anche dopo 3 anni. Molto bene, grazie davvero a Roberto Lucchini, il presidente di Agnasa. Buona serata, presidente. Grazie a lei, arrivederci. Che cosa c'è nell'abitacolo delle nostre vetture? Beh, insomma, che domandona. Ci sono ormai tantissime tecnologie, tantissimi oggetti che ci aiutano multimedialmente per trovare la strada migliore, e sto parlando di navigazione satellitare. Giunge alla terza puntata la nostra inchiesta, ci fa compagnia Mio Technology, ed è con noi il Country Director per la Grecia e l'Italia di Mio Technology, Raffaele Crippa. Caro Crippa, buonasera e benvenuto. Buonasera a tutti voi. Allora, ci sono all'ascolto molti automobilisti, come lei può immaginare, molti ascoltatori. Ci fa capire intanto chi è Mio Technology, per chi non lo conoscesse. In 30 secondi le chiedo una storia della vostra azienda. Mio Technology fa parte di un complesso industriale con capitale e base tecnologica a Taiwan, fabbriche produttive nell'area sud-est di Shanghai, quindi nella zona di Shunde. È un complesso tecnologico diversificato in vari settori. Partiamo dall'alimentare, all'informatica, alle nuove tecnologie, flussanti e via dicendo. Questo è in breve sintesi la nostra storia. Bene, noi ci occupiamo di motori, e quindi io ho piacere di sapere da lei che cosa oggi propone come miglior prodotto Mio Technology. Mio Technology è nata innanzitutto nel 2002 come spin-off in ambito brand division di Mitech International Corporation. Quindi ad oggi noi ci prospettiamo a cercare di applicare un cambio generazionale nell'ambito del sistema di navigazione satellitare. Le offerte in campo oggi sono generalmente, chi più e chi meno, orientate anche all'utilizzo e all'introduzione di servizi. Sì. Mio Technology si è orientato in prevalenza con questa nuova gamma chiamata Move Spirit, quindi la serie S, serie superiore, che prende appunto il nome da Spirit of St. Louis, l'aereo che Lindbergh ha sorvolato l'oceano, per dare un senso di innovazione e di libertà. Ad oggi il prodotto di punta che noi offriamo sul mercato è un 7 pollici, quindi di dimensioni generose, completo di tutte le mappe europee. Si sta parlando di una mappa europea dei 27 paesi dell'Europa, più la funzione ovviamente TMC, quindi Traffic Messaging Control, sistema di monitoraggio del traffico, e ultimamente abbiamo introdotto anche la ricezione del digitale terrestre, quindi anche la funzione televisione. Fermiamoci un attimo su questo punto, che è quello un po' anche più facile per voi da comunicare e di più ampia presa. Che cosa vuol dire navigatore satellitare con TV integrata? Che cosa esattamente si può prendere con il vostro navigatore? Allora, Diciamo che il concetto di base di tutta questa nuova evoluzione, di questo add-on tecnologico orientato all'automobilista, è soprattutto avere un oggetto che copre uno spettro di 360 gradi, tutto intorno a te. Quindi avendo tutto di serie, dall'informazione del traffico alla televisione, alle mappe, alle guide turistiche, riusciamo a, diciamo, gratificare il nostro consumatore in modo poliedrico, quindi ci modifichiamo in base all'utilizzo e all'interfaccia dell'utilizzatore che ci troviamo di fronte. Quanto costano i vostri prodotti? Ci faccia qualche esempio su quelli che ha citato. Allora, diciamo che la serie Spirit, che è la serie nostra fascia alta, per così essere molto semplici, schietti e quindi diretti, va da un 129 euro, dove abbiamo un navigatore con 3 pollici e mezzo mappa regionale, sì, fino ai 349 euro del 7 pollici con mappa europea e televisione. Nella linea televisiva abbiamo un entry level da 229 euro fino a, come detto poc'anzi, il 349 euro più completo. Molto bene, chiudiamo con un sito su cui voi potete dare maggiori informazioni e su dove trovare i vostri prodotti. Parto dall'ultima domanda, brevemente: i nostri prodotti li trovate in qualsiasi negozio di elettronica di largo consumo, non cito nessuno per non fare torti, e nei maggiori supermercati. Per quanto riguarda il sito, per avere maggiori informazioni, in lingua italiana, www.mio.com. Molto bene, mio.com. Raffaele Crippa era il Country Director Grecia Italia di Mio Technology. Grazie Crippa, a presto e buona serata, buon lavoro. Grazie a tutti, contraccambio. Adesso parliamo di assicurazioni, invece è un balzello, lo vedete, ma stiamo ruotando intorno all'abitacolo, fuori e dentro. Il consigliere delegato di cercaassicurazioni.it, scritto tutto attaccato con una A sola in mezzo, si chiama Emanuele Anzaghi. Buonasera Anzaghi. Buonasera a lei. E benvenuto. Quattro ruote e dintorni. Assicurazioni online oppure assicurazioni tradizionali? Questo è il dilemma amletico di oggi di molti automobilisti, perché insomma spesso i costi strizzano l'occhio all'online perché si riesce a risparmiare, però ci sono molte critiche, non per tutti ovviamente, per alcuni, sulla qualità del servizio che in realtà sta facendo, per quanto ne so io, passi avanti. Ma come districarsi in questa selva? Beh, ci sono dei portali creati apposta che consentono di equiparare, in qualche modo mettere sul tavolo tutte le varie proposte che riguardano la nostra vettura appartenenti a compagnie assicuratrici diverse. Come dire, ti faccio capire quanto spendi con una, con la seconda, con la terza, con la quarta e poi puoi decidere. Sono molto utili, ne abbiamo già sentiti due nei mesi scorsi, ne arriva uno nuovo, si chiama Cerca Assicurazioni, scritto tutto attaccato.it. Allora, Emanuele Anzaghi è con noi, ve l'ho presentato prima, ci fa capire esattamente come funziona cercaassicurazioni.it, Anzaghi? Sì, certamente. Allora, il funzionamento del sito è molto semplice, c'è un home page nella quale si inseriscono i dati necessari per la preventivazione, dall'home page cliccando un tasto si passa direttamente alla comparazione e da lì, se si è interessati, premendo su un ennesimo tasto scegli, si può scegliere la polizza di proprio interesse. Detto così è semplice, però voglio dire, è semplice anche tecnicamente, io ho provato, devo dire, abbastanza intuitivo. Sì, abbiamo cercato di rendere la cosa veramente più semplice e fruibile possibile, tra l'altro per esempio non chiediamo dati identificativi personali, cerchiamo di ridurre al minimo le informazioni necessarie per arrivare a vedere questi benedetti preventivi. Cosa succede all'automobilista che ha a quel punto un podio, un primo, un secondo e un terzo posto a livello economico di fronte a sé? Che cosa possiamo consigliargli per fare la scelta giusta? Di guardare anche i contenuti delle assicurazioni, in primo luogo il massimale dell'RC, che è importante, perché se si ha un incidente che coinvolge persone è importante che questo sia anche un po' alto, un po' capiente, quindi diciamo almeno 2 milioni, 2 milioni e mezzo di euro. Non saranno alzati per legge, tra l'altro, rispetto all'1.6 che mi pare sia obbligatorio oggi? Assolutamente sì, oggi sono 750.000 euro. Ah, 750. La comunità europea ci ha imposto di passare con gradualità a 5 milioni di euro, ci sarà un primo passaggio proprio a dicembre di quest'anno in cui ci si porterà 2 milioni e mezzo di euro, quindi è una linea di tendenza generalizzata, è chiaro. Quindi diceva, questa è la prima osservazione da fare, il massimale da tenere d'occhio, poi? Ma un'altra cosa che noi suggeriamo sempre di guardare è la tutela del conducente, chi guida guida la macchina, diciamo che determina l'incidente, è l'unica persona che non è coperta da nessuna assicurazione. Quindi è importante questa garanzia, che si chiama tutela del conducente. Costa normalmente poche decine di euro e fa un gran bene, molto utile. E questo permette di ridurre non solo i gravi rischi e costosi, ma si parla di, in questi casi, incidenti con lesioni fisiche al conducente, quando è colpa sua, evidentemente. Quindi se con la mia macchina vado contro un muro, mi rompo un braccio, nessuno mi risarcisce. Se c'è questa postilla nel contratto, c'è un risarcimento, ma ci sono di solito franchigie, c'è un massimale, come funziona? Allora, normalmente si può scegliere, esistono delle versioni senza franchigie con massimali più bassi, per esempio 50.000 euro senza franchigie. Esistono delle versioni che hanno dei massimali più alti, per esempio tipicamente 200.000 euro con una franchigia. Normalmente queste due combinazioni costano lo stesso. Io suggerisco personalmente la seconda, cioè quella con un massimale più alto e con la franchigia, proprio per tutelarsi da un eventuale grande rischio, evidentemente. Molto bene, molto bene. Andiamo avanti, seconda cosa. Poi un altro consiglio? Beh, poi evidentemente si entra nelle garanzie classiche, quindi l'incendio e furto, le casco, il mini casco. Su queste guardare bene appunto i contenuti, gli scoperti e le franchigie, perché spesso sono significativamente diverse da compagnia a compagnia, certo, quindi non certo. Fermarsi semplicemente al primo prezzo. Una volta deciso, Emanuele, che cosa succede? Io compro attraverso il vostro portale o poi mi rivolgo personalmente alle assicurazioni, e che senso ha questa scelta? In realtà, dunque, nel caso in cui si decida di acquistare un prodotto di una compagnia diretta, noi conduciamo il cliente, tra virgolette, direttamente sul sito o il call center della compagnia diretta. Nel caso sia una compagnia tradizionale, è direttamente il broker assicurativo, cioè noi, che gestisce la posizione del cliente. Parliamo un attimo di cercaassicurazioni.it. Di chi è esattamente? Chi è che l'ha fondata e dove sta il vostro business? Allora, la società è stata fondata insieme a me da Mutui Online, che è una società che fa un lavoro simile nell'ambito dei mutui, e da Vola Gratis, che fa comparazione di voli aerei. Quindi l'idea è quella di allargare questi servizi di comparazione per l'utenza, di risparmio. Il nostro business consiste nell'incassare una piccola commissione, una piccola provvigione da parte delle assicurazioni nel momento in cui un contratto va a buon fine. Tengo a precisare che nulla di quello che noi percepiamo va a detrimento del prezzo del cliente, anzi noi garantiamo al cliente che il prezzo che lui paga è uguale o spesso inferiore a quello che troverebbe sui siti delle compagnie. Dove sta il vostro guadagno allora? Il nostro guadagno sta, come dicevo, in questa commissione che ci pagano le compagnie, che è inferiore a quella che pagano per tutti gli altri canali fisici. Ah, ecco, grazie alle efficienze che porta internet. E questo ci consente anche di portare degli sconti importanti sui consumatori. Molto bene, grazie per ora. www.cercassicurazioni.it, è stato con noi Emanuele Anzaghi, grazie, a presto, buona serata. Grazie, buonasera. Parliamo adesso di una rievocazione, la rievocazione di una leggendaria gara per auto d'epoca che oggi rivive, in particolar modo a settembre, sulle Dolomiti, da poco decretate patrimonio dell'UNESCO. Coppa d'oro delle Dolomiti si chiama, ci fa compagnia responsabile dell'organizzazione della Coppa, Massimo Perer. Allora, caro Perer, buonasera e benvenuto. Buonasera a lei e a tutti i suoi ascoltatori. Ci fa una bella introduzione a questa gara che si terrà a settembre, ci dirà esattamente lei dove e quando, cercando di farci vivere. Le chiedo un po' lo spirito che io conosco perché ci sono stato, ma magari molti ascoltatori no, si percepisce nei momenti in cui si rievoca una gara d'epoca. Allora, innanzitutto una piccola premessa storica ci vuole. La manifestazione, la gara, anzi originaria, si corse dal 47 al 56 ed era una gara di velocità come tutte le gare che si correvano negli anni 50, vedi ad esempio la Mille Miglia. Sì. Era una gara che durava un giorno solo, circa 300 chilometri, una gara che si correva su strade per lo più non battute, sterrate, dove i piloti veramente sfidavano in ogni curva la morte per rimanere vivi, per cui era più una lotta alla sopravvivenza che una gara di velocità. Oggi è diverso, oggi mi auguro sia diverso. Sì. Oggi è assolutamente diversa. Non tanto per la condizione delle strade, che non sempre sono così ottimali viste le abbondanti nevicate dell'inverno, però la gara negli anni si smise di correre la storica nel 56, poi ci furono dei periodi di alternanza tra pausa e ripresa delle rievocazioni. Oggi da un po' di anni a questa parte si corre questa rievocazione, che si manifestazione che si svolge a inizio settembre appunto a Cortina, dura 4 giorni, per cui gli equipaggi iniziano ad arrivare a Cortina il giovedì per fare le verifiche tecniche, la punzonatura, iniziano a rilassarsi e a godersi l'atmosfera di Cortina, certo, che in quel periodo offre un clima davvero meraviglioso, dei panorami stupendi. Poi affrontano due giorni di gara, venerdì e sabato, attraversando praticamente negli anni tutte le Dolomiti, perché noi cerchiamo ogni anno, e questo è il lavoro più importante secondo me che facciamo, di scoprire nuovi angoli, nuove strade, strade non battute, poco conosciute, per dar modo appunto ai nostri amici di conoscere al massimo le Dolomiti. Bellissimo, quindi cambia il tragitto ogni anno, molto bello ogni questo. Anno, sì. Ci fa il nome di qualche autovettura d'epoca particolare che parteciperà quest'anno? Ma allora, diciamo che ogni anno noi abbiamo veramente un parterre abbastanza importante di auto. La nostra gara è un po' penalizzata dal percorso che fa una selezione naturale, in quanto lei consideri che solo nella tappa del venerdì attraversiamo sei passi tra i più importanti delle Dolomiti, per cui l'esclusione di alcune auto, magari più vecchie o meno potenti, è naturale proprio per questo tipo di stress che diamo ai motori. Abbiamo sicuramente le macchine più facili e più resistenti, come le Porsche, per esempio le 356 di tutti i tipi, dai modelli pre-A del 54 per poi arrivare alle A, alle B, alle C, alle Speedster, alle Cabriolet, alle Roadster, alle Carrera, e a chi più ne ha più ne metta. Che meraviglia! Ma auto d'epoca e Dolomiti sono indubbiamente una coppiata vincente. Le curve e in alta quota non fanno soffrire le vetture d'epoca? Ma guardi, assolutamente no, anzitutto perché, come le dicevo prima, una selezione naturale è data proprio dal tipo di gara, per cui i piloti cercano di portare delle auto con cui poi si divertono. Abbiamo infatti delle Mercedes tipo le 300 SL, le 300 Roadster, le ali di gabbiano, sono delle macchine anche molto potenti e molto divertenti da guidare, per cui le assicuro che se lei si trovasse lungo il percorso vedrebbe delle scene che metterebbero in dubbio sicuramente l'anzianità delle auto, perché effettivamente le macchine vanno. Molto bene, l'appuntamento allora è a Cortina, nelle Dolomiti, esattamente in che giorni? Dal 3 al 6 settembre. Molto bene, dal 3 al 6 settembre, grazie Massimo Perer, il responsabile dell'organizzazione della Coppa d'Oro delle Dolomiti. A presto e buona serata. Grazie a voi, buona serata. Allora, vi ricordo la nostra email per qualsiasi informazione che riguardasse gli ospiti, le informazioni che abbiamo dato, ma anche per l'avvocato che sta per giungere ai nostri microfoni, ed è 4ruote@radio24.it. Allora, l'avvocato Erika Lievore dello studio legale di Milano, buonasera e bentornata. Buonasera a lei, ascoltatori. Ci aiuta a capire, a conoscere meglio il codice della strada. Questa settimana si è parlato di biciclette e allora uno dice: cosa c'entra il codice della strada con le biciclette? In realtà già c'entrava prima, ma ora c'entra forse ancora di più, c'è stata una certa polemica. Ci vuole dire lei di che cosa stiamo parlando? Sì, nella legge sulla sicurezza che è stata approvata in via definitiva qualche giorno fa, l'articolo 3,48 prevede importanti modifiche a quello che è il nostro codice della strada. La legge ha infatti introdotto il 219 bis, che al primo comma dispone innanzitutto come sia attivato ormai il patentino a punti per i motorini, e al secondo comma, per quello che ci riguarda oggi, prevede invece che qualora una violazione del codice della strada venga commessa alla guida di un veicolo per il quale non è richiesta la patente di guida, e facciamo quindi l'esempio di una bicicletta, se il conducente è persona munita di patente di guida, questa è sanzionabile nell'ipotesi in cui questa violazione preveda una sanzione amministrativa accessoria. E da qui sono nate un po' le polemiche, un po' degli automobilisti contro i soliti ciclisti e dei ciclisti contro i soliti automobilisti. Come dire, già siamo vessati con pochi punti tutti quanti da mille regole che peraltro sono giustissime, e qualcuno dice basterebbe che voi guidaste con intelligenza, educazione e i punti li trovereste uguali a fine anno. Dall'altra qualcuno dice: ma come, io ciclista, se ho la patente vengo decurtato dai punti, e se invece non ce l'ho non mi succede niente alla patente che evidentemente non ho. E su questo c'è stato anche un intervento simpatico di Beppe Severgnini sul Corriere della Sera. Cerchiamo di capire anche che cosa rischia esattamente il ciclista. Cosa dice la legge, avvocato? Allora, si estende la punibilità accessoria a tutti coloro che guidano una bicicletta e sono in possesso di una qualsiasi patente di guida, ex articolo 216, 218 e 219 del codice della strada. Le sanzioni previste da questi articoli sono il ritiro, la sospensione o la revoca della patente di guida, nonché ovviamente la decurtazione dei punti. E quindi non il divieto di sosta, evidentemente, che è stata una delle battute che circolava: metto la bicicletta in divieto di sosta, mi tolgono 2 punti sulla patente. No, assolutamente no. Il divieto di sosta viene decurtato quando si tratta, se non sbaglio, di corsie naturalmente dell'autobus, gli handicappati e cose di questo genere. E quindi, ad esempio, chi circola in contromano in bicicletta cosa rischia? Bisogna dire che questa persona che circola in contromano rischia 4 punti della patente. Se addirittura poi ci troviamo di fronte a un ciclista che in contromano è anche in corrispondenza di una curva, rischia 10 punti della patente e la sospensione. Notevole, mi ha lasciato senza parole, avvocato. Io la ringrazio ancora una volta per essere stata con noi. Ricordiamo, per giungere fino all'avvocato Lievore è sufficiente scrivere a noi, ci penseremo noi a girare le domande a cui risponderà via microfono. 4ruote@radio24.it. Grazie e buona serata. Grazie, buonasera ai suoi ascoltatori. Non mi resta che ringraziare Giacomo Spunta, mi ha fatto compagnia in regia. Grazie Giacomo. Roberto Rasia è stato con voi al microfono. Ci ritroviamo però insieme sabato prossimo alle ore 21 con Radio 24 e 4 ruote, sempre a braccetto. www.radio24.it e 4ruote@radio24.it. Buon weekend, ma soprattutto buona guida.